Quando piange il ciel e impallidisce il sole, quando un grigio vel discende sulle cose, come una dolcezza amara, un pianto rattrista il mio cuore, mille nubi d'oro ricordano chimere, mille vaghi fior, promesse non sincere, come un'illusione strana, e il pianto sommesso del cielo. Nel cuor le gocce cadon lente, svegliano il ricordo dell'amore, ma so che se la pioggia mente, non mente, ne son certo, il mio dolore. Quando piange il cielo e impallidisce il sole, quando un grigio velo discende sulle cose, come una dolcezza amara, è il pianto che rattrista il mio cuore. Se la pioggia mente, non mente, ne son certo il mio dolore. Quando piange il cielo e impallidisce il sole, quando un grigio velo discende sulle cose, come una dolcezza amara, è il pianto che rattrista il mio cuore.